ora in onda, qua e là, tra una novità e l'altra. Angelo Arduino e Mario Lombardo e anche Fabio Fiduccia vi augurano una felice giornata. Saluto particolare come sempre ai nostri connazionali che ci seguono in ogni parte del mondo sul sito www.crmpiradio.it. La scaletta di oggi: intanto abbiamo in studio Antonio Tumminello, candidato sindaco di Castelbuono del gruppo Castelbuono in Movimento, che è in studio con Marcello D'Anna, assessore in pectore, cioè è stato designato da lui come eventuale assessore nel caso in cui dovesse fare il sindaco di Castelbuono. Abbiamo Rosario Lapunzina, candidato sindaco di Cefalù. Abbiamo anche Rosa Maria Testa, anche lei candidato sindaco di Cefalù, che è accompagnato da Ignazio Zum e Giovanni Crisafi. E abbiamo anche in studio Massimo Portera, presidente del Centro di Cultura Polis Cefaloidion, che è venuto in studio con Pasquale Turdo e Totò Portera. E naturalmente con loro parleremo della settimana della passione, ma parleremo anche del premio di poesia Domenico Portera, che ricordiamo sempre con enorme rimpianto. E partiamo, ecco, dalla scaletta di oggi. Antonio Tumminello, candidato sindaco di Castelbuono. Intanto presentiamoci per i nostri radioascoltatori con una piccola scheda personale. Ecco, so che sei dottore commercialista. Ecco. Buongiorno a tutti. Io innanzitutto, nel porgere il buongiorno, mi scuso per la mia raucedine. Purtroppo non è il periodo migliore, come il tempo fa di questi scherzi, e quindi capite bene. Poi credo che questo non aiuti, non ho una voce forse estremamente radiofonica, però cercherò di rappresentare le ragioni di un impegno, prima con una breve presentazione. Io, come diceva il professore Lombardo, sono dottore commercialista. Mi sono sempre occupato, di enti locali, svolgo la mia professione proprio in modo specifico, rivolgendomi agli enti. Del resto, tra le altre cose, faccio anche il responsabile finanziario nei comuni. Sono stato ad Altavilla Milice, cioè un comune anche difficile dal punto di vista finanziario. Sono adesso al comune di Alemena. Ho svolto e svolgo l'attività del revisore dei conti in tantissimi comuni, tra cui anche sono stato al comune di Cefalù, in un periodo del resto anche difficile, dopo che erano successi una serie di eventi noti un po' alla stampa e anche ai cittadini del territorio e del comprensorio. Svolgo l'attività in tutta la Sicilia, perché mi ha portato un'idea che noi, devo dire, insieme ad altri colleghi abbiamo per primi sposato, che era quella dell'associazionismo comunale. Abbiamo creduto già nel lontano 2002 che uno dei modi per affrontare meglio i problemi finanziari, i problemi gestionali, organizzativi dei servizi, poteva essere quello di stare insieme, di mettere insieme le migliori energie e le migliori risorse, del resto coniugando un po' quel vecchio motto che l'unione fa la forza. Mi dispiace, in quell'occasione una delle cose che avevo proposto era stata, così a titolo assolutamente gratuito per il territorio, dato che io svolgo poi con passione l'impegno politico su Castelbuono, quindi non poteva diventare occasione di lavoro per la mia Castelbuono e nella mia Castelbuono, di poter mettere insieme alcuni servizi con il comune di Cefalù e con altri comuni limitrofi. Quell'occasione non andò in porto e purtroppo devo dire anche sono stato costretto, dopo aver aiutato a nascere in Sicilia forse decine di unioni di comuni, a bocciare un'iniziativa nella qualità di consigliere comunale a Castelbuono di mettere alcuni servizi insieme tra Castelbuono e Gratteri, ma insomma capite bene che forse l'ambito territoriale non era dei migliori, e quindi a malincuore, credendo e continuando a credere che lo strumento dell'associazionismo sia fondamentale per poter erogare al meglio i servizi alla nostra comunità, alle nostre piccole comunità per certi versi, se consideriamo che oggi l'ambito dimensionale di alcuni servizi non può essere quello di 10.000 o 15.000 abitanti, o in alcuni casi di 3.000 come succede in altri piccoli comuni. E questo, devo dire, questa è un po' la mia scheda bibliografica. Poi il mio impegno politico invece nasce da lontano, devo dire, perché molti forse qua, ecco, in redazione non lo sanno, ma io giovanissimo fui catapultato in politica e candidato, così, in modo forse all'epoca si raccontava e si diceva, ma un Nayeri Stucarus, che proprio era giovane a 28 anni, candidato sindaco all'epoca, poi persi al ballottaggio con il professore Mazzola, che fece il sindaco in quell'occasione a Castelbuono. Oggi una cosa che mi fa piacere è di poter dire che invece l'impegno che ho svolto in questo periodo, poi io fui eletto nel 2007 consigliere comunale a Castelbuono, svolgendo anche la funzione di capogruppo per un periodo, ha portato molti in consiglio comunale a pensare che la mia competenza, oltre che la mia passione, poteva essere un importante viatico per affrontare le difficoltà a cui i comuni, volenti o nolenti, vanno incontro. Si aggiungono oggi anche altri consiglieri che non appartenevano al nostro gruppo consiliare, ma magari di questo ne parliamo in un momento successivo. Ecco, grazie. Poco fa hai accennato un pochettino a questa integrazione tra comuni, parlando anche di Gratteri, ma non è il caso proprio di estendere questa integrazione anche anche ai comuni un po' più grandi, come Cefalù, fare in modo che si risparmi anche attraverso un'integrazione tra vari comuni? Noi abbiamo visto l'esempio del comune di Valdemone, tra Polline e San Mauro Castelverde, che bene o male pare che abbia funzionato. Dato che, ecco, Antonio Tumminello, dal revisore dei conti, è girato un po' in tutta la Sicilia, io so che se Sparta piange, Atene non ride, perché tutti i comuni sono in difficoltà, hanno problemi di natura finanziaria. Quindi da questo nasce la capacità che devono avere i sindaci dei vari comuni nel cercare di risanare il bilancio e di portare avanti un qualcosa di diverso, anche in periodo di crisi. Ma noi abbiamo visto in questo periodo di crisi, per esempio, che Termini Merese ha avuto dei milioni di euro per l'Interporto, ma questo è solo un esempio, ce ne sono tanti, ma tanti altri. Ecco, non credi che questo problema, che sia comune a tutti, a tanti, potrebbe essere un po' alleggerita da un'integrazione tra i veri comuni, dalle spese, un unico segretario per tanti, per due, tre comuni e così via di seguito, ovviamente dove c'è minore difficoltà? Ma vede, questo è sacrosanto, credo, e ormai lo dimostra anche la volontà del legislatore nazionale di andare incontro alle necessità dei cittadini attraverso strumenti aggregativi. E purtroppo, ecco, l'associazionismo è nato un pochettino male per certi versi, perché quando nel 99 nasce impone quasi quasi ai comuni di arrivare alla fusione entro un determinato periodo, all'epoca era di 10 anni, poi il legislatore corregge il tiro e inizia a incentivare le forme aggregative. L'incentivazione ha aiutato certamente tanto. Lo spirito è quello proprio delle economie di scala. non c'è dubbio che su determinati servizi si riesce a risparmiare, ma come dicono quelli bravi anche in economia, c'è un momento cosiddetto, questo punto di equilibrio tra costi e in azienda diremmo ricavi, nel caso di aziende pubbliche diremmo benefici, non possiamo certamente parlare di ricavi, ma che porta a un dimensionamento maggiore. Certo, io quando girando tra i comuni ho detto che è una delle logiche che non può passare è quella di creare nuovi strumenti, nuovi carrozzoni che possono essere occasioni soltanto di creare altre poltrone e quant'altro. Il legislatore di questo si è guardato bene, perché se pensiamo per un attimo che i consiglieri che farebbero parte dell'Unione sono i consiglieri eletti nei comuni, se pensiamo che non è possibile il cumulo delle indennità, diventa un fatto importante. Oggi è quanto mai attuale l'argomento, perché vedete, noi non abbiamo secondo me dei buoni esempi di gestioni sovracomunali. Cioè, anche quando cerchiamo di spacciare per esempio importante la gestione sovracomunale in ambito ATO, ogni tanto viene raccontato, per dire, l'altro candidato sindaco è l'amministratore, il liquidatore del lato rifiuti, e ci viene raccontato che insomma che siamo virtuosi, forse uno degli ATO più virtuosi del mondo, per non dire d'Italia, scherzando. La verità vera è che invece a noi, ai cittadini, continua a aumentare il costo della bolletta, il costo del servizio per i comuni è raddoppiato. Io posso portare l'esempio concreto di Castelbuono, dove noi prima di transitare al lato pagavamo 800.000 euro la raccolta dei rifiuti, il paese credo che non possiamo dire che fosse sporco in quell'occasione, e oggi ci costa 1.580.000. Allora questo di qua, che doveva essere un momento forte di economia di scala nella gestione di un servizio fondamentale per la comunità, forse non è riuscito a dare i suoi buoni risultati. Il mettere insieme i servizi quindi passa per una certezza, che è quella di dover necessariamente ridurre i costi ai cittadini migliorare il livello qualitativo dei servizi, perché se noi aumentiamo in ogni caso quello che è il costo per i nostri cittadini, oggi più che mai credo che non facciamo una cosa buona. Cioè, quindi la finalità principe dello stare insieme per riuscire a erogare servizi, che è nota a tutti, cioè capite bene che forse oggi non è più il tempo di pensare che ogni comune abbia una piscina, forse oggi non è più il tempo di pensare che ogni comune abbia una biblioteca, forse non è più il tempo di pensare che la formazione dei dipendenti si possa fare in modo isolato. Del resto, quando c'è un relatore o parla per 10, dico io, o parla per 50, alla fine il costo è lo stesso, quindi riuscire a dividere i costi diventerebbe un'occasione importante, e il risparmio potrebbe andare in due direzioni: o quella di ridurre i costi nel caso di alcuni servizi che obbligatoriamente dobbiamo erogare ai cittadini, o quella di poter dare ai cittadini servizi che oggi non riescono a ricevere. Sì, su questo argomento, ecco, vorrei sentire anche il parere di Rosario Lopunzina, che non ha certamente bisogno di presentazione, perché è venuto tante volte qui alla radio, capogruppo del PD in consiglio comunale, quindi ecco. Ma io sulla... anche per quanto riguarda il consorzio di eventuale sul riunione dei comuni, cioè comuni. Buongiorno a tutti gli ospiti qui a Cefalù Radio Manaria, ma a chi ci sta ascoltando e a chi ci sta guardando, anche perché ora c'è questa novità che Cefalù Radio Manaria, oltre a sentirsi, si vede pure. E sul ruolo dei comuni e sulla possibilità anche di erogare servizi con costi minori rispetto anche alle esigenze che il nostro comune ha di tanti servizi, io ho qualche perplessità. Noi abbiamo una cittadina che nel periodo invernale ha una normale diciamo, ci sono i cittadini e un altro. Nel periodo estivo abbiamo bisogno di servizi molto molto più efficienti rispetto al fatto che la nostra cittadina ha, raggiunge anche punte di 40.000-50.000 presenze, e per cui parlare di un'unione di comuni per mettere insieme per esempio il corpo di vigili urbani con altri comuni, insomma, mi pare che sia non praticabile. Senza voler polemizzare con l'amico Tumminello, che conosco bene, è stato revisore del comune di Cefalù, poi ci conoscevo da tempo, sulla vicenda del lato, sì, anche Cefalù ha triplicato i costi per quanto riguarda il servizio dei rifiuti. Però dobbiamo dire che lato ecologia ambiente, lato 5, rappresenta nell'ambito della regione ciliana e tutti gli ATO della regione ciliana uno degli ATO che ha gestito meglio di tutti gli altri. Se poi diciamo che questo consorzio dei comuni per la gestione del lato non è un'esperienza felice, siamo d'accordo rispetto al fatto che purtroppo il legislatore ha messo insieme questa, e ora l'ha peggiorata il legislatore regionale, perché addirittura ci vorrebbe proiettare in una gestione provinciale, ha messo insieme questi ATO, ambito territoriale ottimale, che rispetto alla gestione comunale rappresentano, diciamo, costi di gestione più alti rispetto a quelli che noi eravamo abituati a sostenere. Il comune di Cefalù svolgeva il servizio con un costo di 1,6-1,7. E ora paga qualcosa come 3.820.000 euro, forse quest'anno qualcosa in più, e se noi ricordiamo sempre che esistevano le lire, che esisteva la lira, noi parliamo di circa 8 miliardi delle vecchie lire, per cui qualcosa è veramente di impressionante come costo, e questo costo viene evidentemente poi riversato sui cittadini. Per cui perplessità sull'unione dei comuni, almeno per alcuni servizi sicuramente. Il comune di Cefalù ha provato a mettere insieme alcuni comuni, Cefalù Castelbuono, però senza arrivare poi al dunque. Dunque, diciamo che non, forse anche per la impossibilità di gestire servizi comuni rispetto alle esigenze che sono diverse. Il comune di Cefalù ha esigenze diverse, deve assicurare, come ho detto poc'anzi, in estate servizi efficientissimi rispetto alle presenze che sono altre. Certo. Candidato sindaco a Cefalù c'è anche una donna, si chiama Rosa Maria Testa. Ecco, intanto vorremmo i nostri radioascoltatori vorrebbero saperne un po' di più su Rosa Maria Testa, sul suo su una scheda, su un curriculum, qualche cosa che... Intanto buongiorno a tutti, io sono cefaludese di nascita e vivo a Cefalù ormai da 20 anni. Figlia del professore Testa. Sono la figlia del professore Testa, che molti ricordano, è stato sindaco. È stato sindaco di Cefalù. È stato prima vice sindaco del dottore Giardina e poi è stato sindaco alla fine degli anni 70 di questa città. Io sono medico pediatra. Nell'ambito della mia professione ho lavorato, e molti mi conoscono per questo, perché per circa 12 anni ho lavorato all'ospedale di Cefalù e poi anche con la Fondazione San Raffaele Giglio, quando è stata, diciamo, da quando c'è stata la Fondazione San Raffaele Giglio. Mi sono precedentemente occupata, sempre come pediatra, di portatori di handicap. Ho lavorato nei servizi territoriali allora della ex USL come pediatra per l'equipe pluridisciplinare per l'handicap. Da qualche anno non lavoro più in ospedale, lavoro nel territorio, e anche in questo ambito mi sono occupata di di medicina territoriale, quindi di servizi per i portatori di handicap, di anziani e di varie altre problematiche che interessano la medicina del territorio. Non ho mai fatto attività politica nel senso comune del termine, nel senso che non ho mai partecipato a, non sono mai stata consigliere comunale, non ho mai, devo dire anche che non ho mai avuto un'appartenenza a un partito. Però la politica, l'attività politica, io credo che si può anche fare nel quotidiano, nel sociale. Io credo di essermi impegnata in questo più che nell'attività politica, quella tradizionale, quella fatta di insomma l'attività politica, quella che comunemente si intende come appartenenza ai partiti, eccetera eccetera. Io credo che l'impegno nell'attività quotidiana, nel sociale, sia la qualità, o almeno la la mia prerogativa, ecco, questa è proprio questa, credo che sia la novità in questa mia candidatura, nel senso che proprio perché ho lavorato nell'ambito del sociale, perché credo di avere dimostrato il mio impegno in questo, credo che questa sia una maniera, non voglio fare polemiche, ma insomma oggi come oggi l'appartenenza ai partiti, non perché non creda nella funzione dei partiti, che sono importanti per la vita democratica, ma credo che proprio bisogna anche uscire un poco fuori dallo schema della politica tradizionale. Credo che bisogna cominciare a partecipare, a mettersi in gioco in prima persona, cercare la partecipazione di tutti, coinvolgere i cittadini nelle scelte che vengono fatte a livello comunale e a livello sovracomunale, e credo che proprio in questo sta la novità e il senso di questa mia candidatura. Ecco, e intanto è venuta accompagnata qui in radio da Ignazio Zummo e Giovanni Crisafe, quindi ritengo che avrà un supporto di qualche partito, di qualche... Allora, sì, allora la mia candidatura nasce, come ho già detto più volte, non da una scelta di un partito, di una coalizione di partiti, nasce come candidatura della cosiddetta società civile, che è un termine che forse è stato ultimamente un po' abusato, ma vuole soltanto significare che non nasce da una... non nasce da una coalizione di partiti. Devo dire che il Partito Socialista, che peraltro ritengo sia fatto di persone che hanno ancora delle idealità ed una grande esperienza, queste persone del Partito Socialista hanno pensato di darmi il mio appoggio. Altri partiti attualmente, che diciamo ufficialmente altre sigle di partiti che appoggiano la mia candidatura, non ce n'è. Il Partito Socialista invece ha pensato che la mia potesse essere una candidatura diversa. Certo. Rosa Maria Testa, ha già designato eventuale assessore? No, io ancora no, devo dire designati ancora non è stato designato nessuno, però la mia intenzione è, nell'eventualità si saranno designati anche i due assessori che bisognerà designare, perché lo prevedono le regole, e io sono sicura però che saranno designati, spero di poter designare delle persone giovani piene di entusiasmo, che però nello stesso tempo siano competenti. Questo dipenderà dal sindaco, dall'idea che ha. L'idea di essere giovane pure. Spero che sì, perché ci sia la disponibilità di persone giovani. Ma perché i giovani? Perché è giusto che anche i giovani siano impegnati profondamente nella gestione dell'attività amministrativa della città. E ripeto, però, una delle condizioni assolutamente necessarie è anche la competenza al ramo. Ecco, la stessa domanda la vorrei rivolgere ad Antonio Tumminello e a Rosario Lopunzi. Ha designato già gli assessori? Noi devo dire che abbiamo costretto un po' gli altri anche ad inseguirci in questo nostro progetto politico, perché partiamo dalla volontà di una lista civica. Noi la volta scorsa ci siamo già presentati come lista civica e oggi quindi continuiamo in quel solco, che non è un solco che vuole prendere le distanze dalla politica, ma è la ragione di mettere, ecco, Castelbuono soprattutto, devo dire, sopra i partiti, sopra gli schieramenti. Io ho avuto modo di dire più volte, quando mi è stato chiesto di impegnarmi, di candidarmi, che non potevo essere il sindaco di uno schieramento, di parte. Lo abbiamo voluto puntualizzare proprio col nostro slogan, che è quello: un sindaco di parte, la vostra, proprio a volere rappresentare questo attaccamento, devo dire, questa volontà di rappresentare tutti e tutto del nostro territorio. Abbiamo quindi messo su questa coalizione che vede il sostegno, tra le altre cose, una cosa che mi onora particolarmente, di consiglieri comunali che avevano già preso le distanze dall'amministrazione Cicero, i consiglieri Brancato e Ferrauto. Abbiamo avuto, ecco, l'appoggio del consigliere Mazzola, che fino a poco tempo fa è stato il capogruppo in consiglio comunale, del segretario del PD che ha partecipato tra le altre cose a quelle primarie che il Partito Democratico ha svolto là a Castelbuono e che poi forse, insomma, ha un po' abbandonato per certi versi, che oggi si presenta non sotto l'insegna del PD ma si presenta sotto l'insegna dell'Ulivo, con un'aggregazione di centro in aggiunta di UDC e di qualcos'altro, io non so ben definire come loro, ma il nostro senso civico, ecco, invece è qualcosa di diverso ed è radicato. Antonio, abbiamo presentato, ecco, i candidati, se sono stati designati qui, credo che ne abbiamo i candidati uno, sono stati già designati, Marcello Danna. I candidati assessori, i primi due sono già stati designati, ma noi designeremo anche gli altri due. E quindi presenteremo la squadra di governo al completo, perché è giusto che i cittadini sappiano chi compone la squadra di governo, oltre che chi, i candidati in lista che necessariamente ci sono. I due candidati hanno un profilo ben specifico. Il dottore Marcello Danna è medico veterinario all'ASP e si dovrà occupare di territorio, ambiente e salute. L'ingegnere Antonio Capuana invece è ingegnere, qua responsabile per quanto riguarda questa, la sua materia, la fondazione, e si dovrà occupare di urbanistica e lavori pubblici. Abbiamo voluto coniugare l'entusiasmo di due giovani professionisti affermati, ormai noti tra le altre cose, con le proprie competenze, e questo è il faro che ci muove nel volere disegnare una giunta capace di dare un contributo concreto e non come magari altri fanno nel seguire logiche un po' più di appartenenza o politiche o una sorta di miscellanea, e quindi chi si è laureato in economia si occupa di urbanistica, chi è laureato in ingegneria si occupa di servizi sociali e quanto altro, come si suol, perché riteniamo che oggi le problematiche siano tali e tante, insomma, una giunta che, tecnica, insomma, diciamo, vogliamo dire anche così, però ecco, la passione nasce dall'impegno civico e che è stato oggi testimoniato nelle attività quotidiane che si vuole mettere al servizio della comunità. Certo, passiamo la stessa palla a Saro La Punzina per sapere se ha già designato i nomi. Ci saranno, prima dei nomi servono i programmi, è evidente che noi stiamo lavorando sul programma e poi arriveranno anche i nomi. Proprio per lavorare sul programma abbiamo posto in essere alcune iniziative, l'ultima è stata ieri presso la sede di Piazza Garibaldi, riguardava, abbiamo avuto dei contributi da parte dell'architetto Marcello Panzarella e dall'ingegnere Di Paolo, ma anche da quelli che poi hanno voluto dire la sua sulla dismissione della linea delle ferrovie, sulla programmazione che dovrà essere per forza fatta in questi 5 anni. Dico per forza perché, diciamo, è importante che venga fatta e che non si sbagli su questa programmazione. Abbiamo parlato di rifiuti in altre occasioni, di giovani, per cui stiamo lavorando sul programma e poi arriveranno anche i nomi, evidentemente anche noi, rispetto al numero degli assessori, che saranno 4 perché la legge è stata modificata, e cercheremo di puntare su persone che possono dare il loro apporto, che siano presenti sempre qui, differentemente da quello che si è fatto nel passato, dove sono state, diciamo, incaricate persone che hanno dato pochissimo alla nostra città, perché almeno nell'ultimo tempo persone che venivano da fuori con una partecipazione alla vita amministrativa part-time, ma veramente un part-time ridotto al minimo, per cui non è altro, abbiamo bisogno di persone che stiano qui a lavorare tutti i giorni, che diano il loro impegno, il loro contributo, che si rendano conto di quelle che sono le problematiche, che vivano insieme al sindaco queste problematiche, che portano avanti il programma che poi è il patto con gli elettori. Avete già deciso le liste, Saro, oppure... Io sarò sostenuto da una lista civica che è Svolta Democratica e dal Partito Democratico. Ci sono ancora, tuttora, ma questo non è un mistero per nessuno, come diceva poco fa la dottoressa Testa, ci sono ancora delle trattative, per cui è evidente che Cefalù quest'anno poi vive un momento di fermento particolare, per cui è diventato un laboratorio anche e una produzione continua di candidati, e ci sono candidati, tra parentesi, che vengono da, io non vorrei parlare di altri, vorrei parlare del sottoscritto, sono candidati che vengono da fuori e anche molto famosi, per cui insomma si parla di Sgarbi, anche del professore Croci, persone che sono fuori dall'ambito territoriale e da quelle che sono le conoscenze del nostro territorio. Cefalù, a mio giudizio, però dico questo, lo esprimo a titolo personale, ha bisogno di un sindaco che sia un sindaco del luogo, che conosce bene i problemi, che possa affrontarli assieme ad altre persone che metteranno impegno e competenza, che è il nostro slogan che abbiamo da subito lanciato nella nostra campagna elettorale, e non ha, a mio giudizio, non ha bisogno di soggetti che vengono qui soltanto per lanciarsi in altra popolarità o per prendere da Cefalù quello che può servire per poi lasciarlo, come è stato nel passato, nei guai. E dobbiamo risolvere tantissimi problemi ed è per questo che io sono convinto che Cefalù ce la può fare con l'aiuto di tutti, evidentemente con sacrifici, però con questo Cefalù deve riprendere, deve ripartire, deve uscire da questa fase di stagnazione, di degrado, e puntando su una delle cose, sulla cosa più importante, che è il turismo, sulla vivibilità, sulla possibilità che il turista venga qui e trovi un ambiente accogliente, che trovi un ambiente anche vivibile, dove i servizi vengono resi nel migliore dei modi, e tutto questo si può fare con una buona amministrazione attenta e che conosca quali sono i problemi e quali sono le cose che sono state trascurate nel passato. Noi da questo punto di vista abbiamo le carte in regola, il sottoscritto ha fatto 10 anni di attività in consiglio comunale, i primi 5 anni sono stato capogruppo di 5 consiglieri comunali, abbiamo fatto una grandissima attività insieme a Saro Fertitta, Gino Crisafi, Giovanni Cristina, Saro Di Paola, Toto Curcio ed altri. Successivamente sono stato capogruppo negli ultimi 5 anni del gruppo del Partito Democratico, ho contribuito, ho dato anche il mio contributo in termini di idee, di proposte, di modifiche di quelle che erano le proposte e che sono state le proposte dell'amministrazione comunale. Penso che ora è finita la fase della opposizione e c'è la fase della proposizione. Io sarò candidato soltanto alla carica di sindaco, non mi carico la consigliere comunale, perché secondo me è giusto che questa volta i cittadini scelgano se vogliono Saro Lapunzina sindaco di Cefalù, oppure insomma questa certo, è la loro scelta. Certo, la regia ci chiede, Angelo Arduino, di fare una breve pausa e intanto ecco passiamo... CRM Pubblicità. A Cefalù, al numero 66 di via Mandralisca, Caffè 66, food, drink e... Nel centro storico di Cefalù, vicino al Duomo, un locale per tutti. Atmosfera calda, accogliente e amichevole. Pub Caffè 66, food, drink, creperia, panineria, bruschetteria, wine bar, birreria, insalate e piatti tipici. Lo trovate anche in internet su www.caffè66.altervista.org. Caffè 66, al numero 66 di via Mandralisca, di fronte il museo. Il modo migliore per rendere felice una donna è regalarle un gioiello, un valore eterno, adatto a sigillare unioni profonde e inossidabili. Da Mineo Gioielli, le più preziose idee regalo proposte con professionalità ed eleganza, perché un gioiello è testimone di momenti memorabili. Mineo Gioielli,

nella fare associazione che è 365 giorni l'anno. E proprio una settimana fa abbiamo lasciato alle spalle un altro progetto che ci vedeva parallelamente coinvolti con altre realtà delle Madonie, Snello, Sollesano, Tale Minusa. E così si sta risolvendo, sì, qualche problema di natura tecnica. Dicevo, un altro progetto che abbiamo lasciato alle spalle è un altro, uno sempre che vedeva coinvolti i giovani dal punto di vista musicale, appunto era l'inserimento dei giovani in questa, quella che è la cultura della musica, della bandistica, e parallelamente eravamo impegnati con Campo Felice Roccella, Isnello, Collesano e due realtà cefalutesi, la città di Cefalù e noi con la Vincenzo Maria Pentorne, che è una sezione del centro di cultura Polis Cefalù di Dion. E si è conclusa questa bellissima iniziativa con una conferenza che abbiamo tenuto appunto alla Casala Consiliare del comune di, nel comune di Campo Felice Roccella. Quindi questo è l'ultimo progetto in ordine di idee che abbiamo lasciato proprio la settimana scorsa, e la settimana in corso invece è quella che è introduttiva alla Settimana Santa, ed è altro che non è che la rievocazione storica della, di quella che è stata la passione, la morte e la resurrezione di Cristo. Con che giunta figurante, quanti pensate di portarne sulla sulle vie, allora in linea di massima sono tra l'organizzazione, tra gli organizzatori e, e gli attori proprio che andranno a recitare il ruolo che gli è stato attribuito, siamo intorno a 150 personaggi, un buon numero, è da mesi che lavoriamo. Perché chiaramente per predisporre una manifestazione di questo genere è importante realizzare anche costumi, e da diversi mesi che le nostre famiglie si ritrovano in associazione a realizzare materialmente i costumi dei vari personaggi. È anche un momento di aggregazione, è un momento chiaramente di comunione, di aggregazione, e per chi appunto crede e ha fede, un momento per prepararci alla Pasqua con anche lo spirito giusto. La manifestazione è poi l'atto conclusivo, ma in realtà, come lei diceva, l'obiettivo va centrato nel momento in cui si riesce a ritrovarci, riusciamo appunto a incontrarci e a realizzare quelli che sono appunto i progetti e le idee della nostra associazione. Chiaramente mi sento di dover dire e ringraziare il centro di cultura, tutte le famiglie, il direttivo che anche quest'anno per il terzo anno consecutivo ha voluto fortemente questa manifestazione, consapevole del fatto che dietro non c'è nessun finanziamento, ma soltanto lo sforzo e l'amore che ancora c'è in alcune famiglie, in alcuni nostri cefaludesi che amano appunto la città e possono farlo attraverso il contributo che si può dare con l'associazione. Ecco, ritorneremo con Massimo, con Totò, anche a parlare del premio Domenico Portera. E ritornando ai nostri ospiti politici, Rosa Maria, dottoressa Rosa Maria Testa, cos'è la molla che l'ha spinta a candidarsi a sindaco di Cefalù? Dunque, intanto diciamo che non mi sono offerta io. Ecco, mi hanno chiesto alcuni amici, alcune persone di candidarmi. Devo dire che dal punto di vista personale, per chi mi conosce sa che non sono una persona né abituata ad interventi pubblici, sono insomma una che cerca sempre di stare un poco in secondo piano, non ho grandi capacità oratorie, non sono... Qual è stata la molla? È stata proprio questa. Quando io ho espresso le mie perplessità dal punto di vista personale, allora mi hanno detto: ma allora dobbiamo lasciare sempre tutto com'è, non dobbiamo mai intervenire, non abbiamo poi il diritto di lamentarci se questa o quell'amministrazione ha fatto male o ha fatto... E quindi diciamo che è stato il senso di responsabilità, di mettersi in prima persona, di dare quello che di mettere a servizio della città quello che è la mia esperienza, la mia capacità di ascolto, la mia conoscenza anche dei problemi di tipo sociale. È stata proprio la spinta è stata data dalla volontà finalmente di mettermi al servizio degli altri in maniera più in maniera diciamo meno nascosta ma più entrare nel lagone sì, a tutto dovevo dire che non con diciamo non sono un'esperta, questo si vede anche da come parlo alla radio, si vede da come questo si intuisce, però credo che sia arrivato adesso il momento della concretezza. Una cosa che volevo sottolineare è che io sono l'unica donna che si presenta come candidato a sindaco. La cosa che mi dispiace, che non vedo, ma io non credo che le donne di Cefalù non abbiano voglia di partecipare, credo che però la politica come è stata gestita adesso e come continua ad essere gestita mette in secondo piano tutto questo. Io credo, ho visto, ho sentito le polemiche che ci sono state in questi giorni, gli attacchi personali. Io proprio come mia formazione, come mio modo di essere, sono un poco al di fuori di questo atteggiamento, di queste, e credo che per esempio anche le donne di questa città non capiscano, non abbiano voglia di entrare nelle polemiche. Qualche volta si vede discutere per mesi su cose su particolari che possono essere importanti, ma il modo che c'è stato fino adesso nella discussione politica, secondo me, allontana le persone dalla partecipazione. Distacca la politica. Distacca le persone. Distacca. E quindi io credo che la mia partecipazione debba servire, ad esempio, anche a questo, cioè di uscire fuori, di partecipare, di affrontare i problemi, cioè di affrontare i problemi della città con un senso di abnegazione, perché la politica non può essere soltanto il trampolino di lancio per alcuni personaggi o il difendere gli interessi di alcuni gruppi di potere. Bisogna che ogni cittadino partecipi attivamente alle scelte di questa città, che sono scelte per il futuro, sono scelte per le giovani generazioni. E d'altra parte il disagio è evidente, tutti vivono il disagio della, diciamoci la verità, attualmente c'è una crisi economica gravissima a Cefalù, ci sono tanti edili che non lavorano, anche il lavoro legato al turismo è un lavoro precario, sottopagato, la crisi c'è, le famiglie hanno grossi problemi per tirare avanti, i servizi sono scadenti, tutto questo la popolazione lo sa. Il fatto è che secondo me bisogna a questo punto mettersi in gioco e partecipare tutti per cercare soluzioni. Scusate se dico una banalità, è una banalità, ma è la realtà. Le donne hanno molto più senso pratico degli uomini, alcuni problemi banali potrebbero essere risolti con proprio con senso pratico. Io credo che le donne abbiano queste capacità. Ci sono poi problematiche importanti che sono lo sviluppo urbanistico, che sono lo sviluppo urbanistico, che peraltro deve essere inteso come qualche cosa che non deve essere inteso. Sicuramente lo sviluppo urbanistico è qualcosa che condiziona la vita sociale ed economica di questa città. Dico, queste cose sono importanti, sono cose di cui si deve discutere con competenza, ma alcune cose potrebbero essere risolte con poche piccoli accorgimenti, con senso pratico e con spirito di servizio. Ecco, siamo entrate proprio nel merito della progettualità dei sindaci, dei singoli candidati. Antonio Tumminello, progettualità. Qual è il suo progetto per Castelbuono? Ecco, come vede il 2012 per Castelbuono, ma anche per le Madonie, se vogliamo? Ma noi diciamo che vediamo il 2012 come l'anno del coraggio, come la possibilità vera di andare verso un governo serio delle cose possibili, io dico. Io credo che sono qua oggi come candidato sindaco scelto da questa ampia coalizione secondo me, io dico scherzando, l'altra sera mi viene il dubbio, ho detto in un comizio, che sono qua proprio perché il momento è difficile, perché altrimenti probabilmente non sarei stato indicato. E allora il nostro intento è quello di creare le condizioni per un governo delle cose possibili, come dicevo, che sia capace di affrontare le emergenze che oggi ci sono. Cioè le emergenze, e inizierei da quella del lavoro. Il problema vero è che oggi i nostri giovani fanno fatica a trovare lavoro, e in questa nostra terra più che mai. Cioè oggi loro sono svantaggiati due volte, perché siamo in un momento di crisi forse mondiale dalla quale non riusciamo a uscire, ma al sud diventa ancora più drammatico. Abbiamo un'emergenza legata al mondo del precariato, le nostre pubbliche amministrazioni. Sapete tutti che, io porto l'esempio della nostra Castelbuono, noi a Castelbuono abbiamo 115 precari che vivono da 20 anni con dei contratti a tempo determinato e che vanno affrontati. Va risolto il problema in linea con quello che la regione fa e deve fare, e cercando di superare gli ostacoli che, come leggete sulla stampa, sul giornale di Sicilia, oggi la Corte dei Conti pone. Abbiamo un problema, anche il comune di Castelbuono inizia ad avere problemi di liquidità, di cassa. Il comune di Castelbuono non aveva mai avuto problemi di cassa. I nostri fornitori aspettano poi quelli in conto capitale 150-180 giorni, con una difficoltà oggettiva delle imprese a poter chiudere il ciclo dei propri pagamenti. Abbiamo, dico quindi, delle emergenze da affrontare, ma abbiamo da programmare lo sviluppo. E qua è questo il punto fondante. Uno sviluppo che non può essere che non uno sviluppo legato a quelli che sono i nostri valori territoriali, la forza del nostro territorio, del nostro ambiente. E là penso che si debba coniugare uno sviluppo possibile anche con Cefalù. Castelbuono e Cefalù devono coniugare la possibilità di ampliare l'offerta turistica, perché Castelbuono ha delle bellezze storiche, monumentali importanti, ha un circuito cittadino, urbano, un centro storico importante che non può essere paragonato ad altri comuni isolani, è ben distante. Abbiamo un ambiente, abbiamo un bosco bellissimo. Abbiamo un parco che deve diventare realmente volano di sviluppo, e tutto questo Castelbuono nel tempo insieme a Cefalù lo hanno fatto. Oggi è giunta l'ora di rifarlo insieme, di camminare a braccetto. Quando parlavo oggi dell'idea di creare sistema, di creare distretto, di svolgere realmente insieme alcune funzioni, penso non tanto al fatto dell'unione dei comuni, che forse, ma sinergie che possono diventare fondamentali. Castelbuono ha vissuto e vive oggi un momento importante dal punto di vista della cultura enogastronomica, e credo che nessuno ci possa togliere il titolo di capitale dell'enogastronomia madonita. Abbiamo una presenza di ristoratori importantissimi, di chef ad altissimo livello, delle tradizioni enogastronomiche che sicuramente completano l'offerta turistica, non c'è dubbio. Oggi chi viene, abbiamo delle maestranze artigianali importanti, eppure soffriamo perché da 20 anni non riusciamo a far fare da volano alla zona artigianale, che pure qualche ventennio fa qualcuno pensò e che l'amministrazione non è riuscita a completare nel loro iter. Allora non ci piace pensare a questa logica un po' propagandistica. Il 31 noi inauguriamo la zona artigianale a Castelbuono, il sindaco ha pensato di inaugurarla e di intitolare le vie, quando ancora non abbiamo avuto l'ok sulla variante urbanistica della zona artigianale. ci piace essere un po' più concreti, devo dire. Il nostro sindaco ogni tanto, credo che su questo è noto anche a voi, dice Falù, proprio con quella sua discesa in campo, parlò di sistema paese, Castelbuono esportabile a Cefalù. Io l'altra sera ebbi modo di dire, per come la pensa lui, questo sistema lo potremmo esportare a Bluefield, lo potremmo esportare dico ovunque nel mondo, dico senza nessuna difficoltà. Invece noi abbiamo un sistema Castelbuono che è frutto del rigore, dell'etica severa, del lavoro dei nostri concittadini, dell'attenzione che ben si coniuga con quella cefaludese, perché è di tutto l'ambito madonita, perché le madonie si distinguono nel panorama regionale e credo che possano essere veramente momento forte, momento importante anche nel panorama nazionale. Allora, da questo, e chi meglio di chi ha messo come noi le tende in mezzo alla gente può interpretare questo? Mi dispiace doverlo dire, certamente sentivo l'altra volta proprio il candidato Norata parlare dell'impegno di una Castelbuono solidale, delle confraternite, ma non posso non rimarcare che il candidato Norata vive a Palermo, è assente da Castelbuono possibilmente da 20 anni, ha deciso di scegliere di mettere su famiglia in altri ambiti. Credo che forse qualche difficoltà nel conoscere e interpretare realmente le istanze lo possa trovare. Ecco, grazie Antonio Tumminello. Ecco, Saro Lapunzina. Mi veniva da fare una battuta, voi l'avete solo a Palermo, Saro, invece lo portiamo alcuni da Milano direttamente. Ecco, in sintesi, progetto è, come vedi, il 2012, anche perché tra un minuto e qualche cosa dovremmo andare, spero di avere la regia, dovremmo andare, spero di avere più di un minuto, dire che no, continueremo sicuramente, non è evidente che c'è una crisi molto forte che si sta vivendo qua a Cefalù. Noi puntiamo subito sulla ripresa, per cui Cefalù non può rimanere ingessata rispetto alla situazione economica e finanziaria, che è veramente grave, ma che va affrontata e andava affrontata da subito. È evidente che questi ultimi 15 anni Cefalù è stata stretta come un limone, e per cui va fatta ripartire da subito puntando sul lavoro. Noi altri abbiamo intenzione di riorganizzare la macchina amministrativa, di poter dare risposte certe a chi fa delle richieste, chi vuole investire, ma è evidente con un ufficio che sia trasparente, però anche efficiente, ed è per questo che è impossibile che per esempio l'ufficio urbanistico, l'ufficio lavori pubblici, l'ufficio espropri sia gestito in questo modo come viene gestito per ora, per cui deve essere potenziato, deve essere messo in rete e devono essere date procedure trasparenti e anche velocizzate le procedure. Su questo abbiamo lavorato moltissimo, per esempio sul regolamento edilizio abbiamo modificato presentando 45 emendamenti al regolamento che è stato approvato e che da subito andrà in vigore, e ci sono già, scattano subito le norme salvaguardia. Abbiamo pensato per esempio che possono essere utilizzati, anziché occupare altro territorio, possono essere utilizzati anche cantinati e semicantinati non solo al centro storico ma anche fuori al centro storico per quelli che sono attività commerciali, laboratori, studi, e abbiamo dato la possibilità anche di regolamentare quelli che sono i porticati, le tettoie che possono essere realizzate, che potranno essere realizzate anche per il 30% rispetto alla superficie dell'abitazione, e tantissime altre modifiche come quello per esempio nel centro storico. Per quanto riguarda le altezze abbiamo dei servizi, possono essere realizzati servizi con altezze 2,10 m, e per quanto riguarda invece l'altezza dei luoghi fino a 2,40 m, che sono quelle per la vendita al pubblico. Ma oltre a puntare sul lavoro dobbiamo puntare su quella che è la messa in reddito del patrimonio. Noi abbiamo un patrimonio immenso che il Comune di Cefalù tiene fermo. Io parto subito da quella che è la Rocca. Abbiamo approvato a settembre del 2009 un regolamento importantissimo, che è il regolamento affidamento dei beni, e anche per come poter utilizzare la Rocca di Cefalù, come poterla gestire, un parco meraviglioso che deve essere messo subito a reddito. Il Comune di Cefalù ha la possibilità di affidare i servizi alle associazioni, potrebbe benissimo fare lavorare tantissimi giovani, affidando a questa associazione anche la gestione dei punti ristoro, della vendita di souvenir e anche quelle che sono le guide presso la stessa Rocca. Ma noi abbiamo un patrimonio stupendo che non mettiamo a reddito, abbiamo un teatro comunale che resta chiuso tutti i giorni, anziché per esempio sulla stessa linea abbiamo teatro comunale, lavatoio medievale e fondazione Mandalisca. Con un solo ticket potremmo mettere per esempio a reddito questi tre beni e farli subito vedere ai turisti, e anziché tenerli chiusi. Ma tantissime idee ci sono ancora, come quelle per esempio di affidare il patrimonio comunale che è in uno stato di degrado e dove non c'è la possibilità di poter spendere soldi, affidarla a delle società specializzate che lo valorizzano, ci danno del reddito a noi. Io penso al Palazzo Municipale, ex Palazzo Municipale, ma come anche al Bastione, come tanti altri beni. Questi beni restano di proprietà del comune, vengono valorizzati da queste società, noi fissiamo quelle che sono le destinazioni dal punto di vista urbanistico e possiamo averne un reddito. È evidente che l'affidamento deve essere fatto per un certo numero di anni. Ricordo un altro bene importantissimo, sono i locali che sono a Piazza Purgatorio, ex locali comunali. E puntare, come ho detto poco fa, sul turismo, ma sulla riorganizzazione della macchina amministrativa. Noi abbiamo un comune dove non c'è un ufficio che si occupa di finanziamenti europei, nessuno si occupa di guardare le gazzette, di partecipare a bandi, di prendere contatti, e si perdono soldi. Ci sono persone, ragazzi di Cefalù, che lavorano già a Bruxelles, che collaborano con delle società importantissime, che vanno valorizzate, vanno qui messe a disposizione della macchina comunale. Ci deve essere la possibilità che il comune dia anche uno sportello in forma giovani, avere la possibilità di dare risposte immediate a chi per esempio vuole aprire un'attività, vuole accedere ai finanziamenti Sviluppo Italia e tantissime altre cose. Ecco. Credo che Angelo Arduino ci chiede di fare una breve pausa, la facciamo e poi riprenderemo con Saro La Punzina e con i Portera. Pubblicità. Mossa. Sabato 24 e domenica 25 marzo, Festival del Cioccolato a Castellana Sicula. Degustazioni, arte, lotteria, concorsi, gare, musica, animazione, artisti di strada. Un programma ricco di appuntamenti. In compagnia di Edoardo Raspelli, 2 giorni di festa all'insegna del cioccolato. Sabato 24 e domenica 25 marzo a Castellana Sicula. Festival del Cioccolato. Per informazione e programma dettagliato, visita il sito www.assopecocastellanasicula.it. La tua auto ha bisogno di assistenza alle gomme? Scegli la direzione giusta. C'è Ciaramitaro Gomme. Vendita e assistenza pneumatici. Cambio gomme con equilibratura e convergenza. Vendita e riparazione cerchi in lega. Tutte le migliori marche per auto, moto, fuoristrada e mezzi pesanti. Ciaramitaro Gomme ti propone per la stagione fredda le gomme invernali e ti garantisce per Goodyear e Dunlop l'assicurazione Super Service con la sostituzione dei pneumatici danneggiati e il soccorso stradale gratuito. Ciaramitaro Gomme, zona industriale Termini Imerese, telefono 0981 814 0016 e a Palermo in via Chiavarelli 10, www.ciaramitarogomme.it. Fatti trovare su internet. Per la tua vetrina online, affidati ad un professionista del web marketing. Maggiori info su madoniexpo.com. Ripeto, www.madoniexpo.com. Che convenienza trovi la Hub, insieme a tanta scelta e qualità. Fino al 25 marzo, sotto a chi compra! Olio extravergine di oliva da 750 ml, 1,99 €. Coca-Cola lattona da mezzo litro, 50 centesimi. Macchina da caffè espresso Gaggia, 59,90 €. Hard discount, in Sicilia e Calabria. La spesa per tutti, di tutto e di più. Per la tua spesa c'è solo Hard. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, quello del Ghirigoro d'Oro. Oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Stuzzico, fast food pizzeria. A Cefalù, pizze piccole e familiari, primi e secondi piatti veloci, da consumare sul posto o da asporto, insalate fresche e fantasiose, e le specialità, panini, piadine, kebab e piatto kebab, panini con hamburger e con porchetta, e il gelato soft. Da Stuzzico, menù fisso a base di carne, 12 euro, di pesce, 15 euro. Stuzzico è anche rosticceria Mignon, catering. Stuzzico è ideale per festeggiare compleanni e ricorrenze particolari. Stuzzico, fast food pizzeria, anche servizio a domicilio. Via Roma 39, telefono 0921 42 35 42, Cefalù. Da Stuzzico anche panini di vari gusti piastrati, pane con la milza e crepe. Per la tua pubblicità su CRM, telefono allo 0921 423 456. E riprendiamo qua e là, tra una novità e l'altra, stava parlando Saro Lapunzina, gli ridiamo la parola per concludere il suo pensiero. Sì, io sono d'accordo poi con quello che dicevo con Antonio Tumminello, si possono trovare sinergie sul turismo, per esempio la scelta miope fatta dal sindaco, dall'attuale sindaco Guercio, di uscire fuori dalla sosvima di questa autosufficienza rispetto a quella con una programmazione territoriale che invece bisogna portare avanti, e la mancata adesione al patto dei sindaci, avere perso il comune capofila, cioè Cefalù non può ragionare in termini di Cefalù e basta, Cefalù deve lavorare su una programmazione territoriale insieme agli altri comuni, continuando questa esperienza della Sosvima, anche portando avanti quello che è la gestione dello sportello unico che è delle Madonie, e per cui noi continueremo su questo percorso, fermo restando che Cefalù deve anche guidare questo processo con un sindaco che sia presente, che vada che partecipi alle riunioni e non come è stato fatto fino a questo momento. E tantissime altre cose poi che riguardano la vivibilità. Noi per esempio vorremmo mettere mano alla vicenda dei parcheggi. È impossibile che non si possa modificare, e deve essere modificata, il pagamento frazionato sui parcheggi a raso, e anche la delocalizzazione di alcuni parcheggi. Abbiamo bisogno di un'attenzione ai cittadini residenti al centro storico, a questi va assicurato un parcheggio nelle vicinanze, cercando con la loro collaborazione di limitare la sosta all'interno del centro storico, un centro storico vivibile, dove ci deve essere la massima attenzione dell'amministrazione comunale, dove c'è essere una presenza della polizia urbana, che di solito vengono chiamati i vigili urbani, la nostra essere una polizia urbana che si faccia rispettare, che faccia rispettare le regole, e che è evidente che dia la possibilità al cittadino che vuole passeggiare nel centro storico di Cefalù, che possa passeggiare tranquillamente senza essere disturbato da motorini o macchine che scorazzano a qualsiasi ora. E quindi possibilmente anche con la videosorveglianza. Su questo saremo molto attenti, la videosorveglianza è un'occasione da non perdere per i finanziamenti europei che ci sono e che sono disponibili, non utilizzare questi sistemi di videosorveglianza che sono installati, che nel passato sono stati installati, che sono inutilizzabili per la videosorveglianza, ma esclusivamente la videosorveglianza legata alla ZTL, per cui concertando bene con i cittadini del centro storico, ma non per questo non facendo le scelte. La nostra sarà un'amministrazione che decide e che non decide di non decidere. Ecco, noi saremo su questo molto attenti, che certe scelte andranno fatte, ma andranno fatte nel rispetto di chi vive quei luoghi da molto tempo, e che quei luoghi, tra parentesi, a quei luoghi è molto attaccata. I cittadini del centro storico non è vero che non vogliono un centro storico vivibile, anzi, non vogliono essere invece accusati che sono loro che lo rendono invivibile. Il cittadino del centro storico deve accogliere il turista col sorriso in bocca, senza bisogno che pensi che il turista sia un fastidio per il comune di Cefalù. La nostra missione principale è il turismo, ed è per questo che avremo un'attenzione particolare anche alle vicende legate al porto, perché il porto è importantissimo che venga ridata l'agibilità non soltanto al Ponte Latino, ma venga data certezza e sicurezza dell'approdo, e la sicurezza quando... per la marineria locale, ma per la nautica di porto, che può portare anche tantissimi tantissime risorse per il Comune di Cefalù. Abbiamo lanciato per esempio ieri un'idea, che è un'idea semplicissima e che non è difficile da realizzare, è quella di mettere mano subito al parcheggio in via Dietro Castello. Il parcheggio via Dietro Castello e l'area Dietro Castello può essere realizzato con poche risorse, ma poi può essere utilizzato il sabato per l'area del mercato, con un'area permanente che è accettata dagli stessi operatori del mercato e che può essere come area di parcheggio perché possa decongestionare il traffico a Cefalù, e come anche altre aree strategiche vanno valorizzate. Io ne penso una per tutta, l'area della stazione, e lì noi ieri abbiamo lanciato l'idea che quell'area da subito deve essere attenzionata da parte del Comune di Cefalù. Il Comune di Cefalù è già il sindaco attuale, deve manifestare un'intenzione che quell'area sia un'area che deve essere utilizzata al Comune di Cefalù, non deve essere preda di privati, perché noi abbiamo l'interesse che diventi punto importantissimo di parcheggi e di servizi che potranno essere resi alla collettività. Sono tutte scelte strategiche importanti che in questi 5 anni si faranno, insieme a quella di un piano regolatore che deve essere affidato a un professionista che viene dall'esterno. L'idea che il piano regolatore venga affidato a un progettista, a un ingegnere del comune, è un'idea assurda, perché gli interessi che ci sono sul piano regolatore generale è evidente che poi pressano sul funzionario locale. Invece deve venire un progettista dall'esterno che venga a programmare Cefalù nell'interesse generale della collettività, ecco, facendo anche scelte severe ma necessarie. Ecco, e passiamo ora a un altro argomento. Ci riserviamo con voi di intervenire subito dopo. E c'è anche Totò Portera, che è il figlio di Mico Portera, di Domenico Portera, un personaggio di grande valore, che Cefalù non ha ancora ricordato come si deve. E ci stanno pensando un po' loro, facendo un premio di poesia. Io mi sarei augurato che fosse dedicata una strada a Domenico Portera, così come mi sarei inaugurata, per fare qualche esempio, di dedicare una strada all'architetto Pasquale Culotta, certamente uno dei personaggi migliori che Cefalù abbia mai avuto. Sono impegni che io e Rosa Maria Testa, qualora eletti, insomma, è chiaro che ho io Rosa Maria Testa, poi sicuramente ci sentiamo di prendere. Questo ci farebbe piacere. Vedete la fotografia che Angelo Arduino ha mandato sul PC in internet di Domenico Portera, un personaggio al quale mi sentivo molto legato da una grande amicizia e da una reciproca stima. Totò Portera, ecco, voi state organizzando un premio di poesia intitolato a tuo padre. Ecco, ce ne puoi parlare un pochettino, come si è articolato, l'avete già sviluppato, c'è qualcosa che... Intanto buongiorno a tutti, a chi ci ascolta e a chi ci vede anche tramite internet. In realtà il premio è alla quinta edizione, e la quinta edizione con la dicitura premio dedicato a Domenico Portera già era partito con appunto il premio dedicato a Rosario Porpora, altro illustre cittadino di Cefalù. Il premio ha 3 sezioni: una sezione dedicata alla narrativa, una alla poesia dialettale e una alla poesia di lingua italiana. Nella quinta edizione, quest'anno in realtà si conferma il respiro ampiamente nazionale, anche già dall'anno scorso, grazie al fatto di essere entrati in un circuito che prevede appunto la presenza di tantissimi premi letterari a livello nazionale. Questo tipo di intuizione di dedicarci molto anche alla rete, quindi di poter pubblicizzare al meglio il nostro premio letterario, anche se lo stesso è stato veicolato nel tempo dai partecipanti, che hanno potuto apprezzare innanzitutto il rigore con il quale viene approcciato il premio stesso. La commissione, che è composta da giovani, riceve i manoscritti senza alcuna firma, sono solo col titolo dell'opera, e ognuno di loro, dei 5 giurati, giudica indipendentemente, una scala di parametri da rispettare per poter valutare le singole opere. Questo da parte delle persone che sono abituate a presentare le loro fatiche in premi importanti è stato estremamente apprezzato e valutato. Si capisce che c'è la correttezza dell'approccio nel giudizio, ma soprattutto c'è una grande passione nel portare avanti un'attività che per noi è in realtà una delle punte di diamante, oltre all'attività del, sia teatrale che della banda, intorno alla quale è nato poi il vero e proprio centro di cultura. Quindi quest'anno la conferma veramente interessante è il fatto che anche, come poi successivamente dirà Pasqualino Turdo, i vincitori sono praticamente tutti i vincitori che vengono da fuori, non perché ci sia stato un privilegio, ma per il fatto che la gran parte dei manoscritti che ci hanno raggiunto sono pervenuti dal resto d'Italia. Questo ha fatto sì anche che nei giorni scorsi, metto una piccola parentesi di carattere non personale ma extra centro, nei giorni scorsi sono stato avvicinato da organizzatori del Festival dell'Aquilone che si svolge ogni anno a San Vito Lo Capo, che all'interno delle loro manifestazioni hanno previsto anche un premio di poesia, mi hanno chiesto di sponsorizzare a titolo mio aziendale la manifestazione o parte della manifestazione e di essere presente nella giuria. Lì sarà un modo per veicolare ulteriormente il nostro premio letterario, che è già comunque molto ma molto conosciuto. Tra altre cose, l'anno scorso una delle cose che ha più colpito tra virgolette la fantasia di chi ci è venuto a trovare per ritirare le targhe e i riconoscimenti e il fatto che abbiamo scelto come location il teatro comunale, che è comunque una bellissima suggestione per chi non si aspetta, certo, quel gioiello incastonato nella nostra stupenda città, ed è stato un momento di particolare emozione sia per noi chiaramente parlare da quel palco che per le persone che sono state premiate. Quest'anno ancora dobbiamo decidere, abbiamo un paio di scelte per quanto riguarda il posto dove poter effettuare la cerimonia di premiazione, e in realtà ci dispiace tantissimo non poter usufruire appieno del teatro comunale. Il richiamo del premio è assolutamente interessante. Tra altre cose, noi manteniamo persone che sono state nel tempo impegnate nella vita politica, ma non cambia niente, perché per noi il fatto che ci siano le elezioni in questo momento non cambia assolutamente niente. Le persone che sono all'interno della giuria sono delle persone di cultura che studiano e che insegnano, certo, per cui a noi interessa quel tipo di approccio. È importante, sì. Grazie dottor Portera. Ecco, i giovani, Pasquale Turdo, i giovani come si inseriscono in questa settimana della passione che la Policy Phaloidon sta cercando di organizzare con 150? Ecco, c'è una nutrita rappresentante sicuramente di giovani. Sì, buongiorno e grazie. I giovani, diciamo che, come era nel volere del fondatore, il professore Portera, sono una parte integrante e valorizzata del nostro centro di cultura. Fanno parte integrante sia della banda musicale, che è formata appunto da giovani e anche giovanissimi, e parteciperanno alla rappresentazione della Passione di Cristo. Diciamo, si sono interessati sia dell'aspetto tecnico come i costumi, faranno parte dello staff, ma anche gli sarà dato spazio nei vari personaggi che comporranno la rappresentazione. Un'altra cosa che volevo aggiungere a quello che ha detto Totò della sezione letteraria, appunto questa intenzione di dare spazio ai giovani sarà manifestata nell'inserimento, nell'antologia, delle opere di giovani e giovanissimi che hanno partecipato al premio. Li volevo citare, sono tre giovani, appunto Maglio Fabio di Cefalù, la ricca Carmine di Lascari e la giovane Pribetic Gloria di Trieste. Quindi continua l'intenzione del fondatore di valorizzare i giovani. Certo. Ecco, grazie Pasquale Turdo. Io vorrei nuovamente passare ai politici per l'ultima invito che vorrei che facessero l'ultimo messaggio, non l'ultimo perché quantomeno in questa fase della radio, l'ultimo messaggio ai politici prima di continuare la campagna elettorale e poi fare il messaggio conclusivo di questa giornata quantomeno. Cosa vi sentite di dire ai radioascoltatori e a coloro che dovrebbero darvi i voti a Cefalù? Ancora la situazione è un po' molto offuscata, non si sa, sappiamo per certo, per esempio, che si porterà Saro Lapunzena, che si porterà Croci, che si porterà Rosa Maria Testa, non sappiamo, Mauro Calliot si dovrebbe portare pure, ma c'è ancora qualcosa di confuso, se è vero come è vero, che io ho sentito che l'altro giorno lì al San Raffaele Giglio il Presidente della Regione ha chiesto al Sindaco di Cefalù di fare un passo indietro e di appoggiare Sgarbi. Ho sentito questa idea che è venuto, queste voci che venivano fuori dal San Raffaele, quindi c'è ancora una situazione confusa. Ma voi che già pensate di portarvi, che messaggio volete indirizzare ai radioascoltatori, a coloro che vi voteranno o anche a coloro che magari non vi votano però ascoltano, possono essere convincenti anche le vostre parole? E allora la situazione, come diceva il professor Lombardo, è ancora molto fluida. Io devo dire che personalmente tutte queste andirvieni, questi restano un po' fuori dalla mia concezione di quella che deve essere la campagna elettorale e anche il futuro dell'amministrazione di questa città. Io mi sento di dire ai cittadini che sicuramente mi impegnerò con il mio tempo, con il mio spirito di servizio, a cercare di risolvere i problemi della città. E il messaggio fondamentale che vorrei fare passare è questo: l'interesse della città deve essere interesse di tutti, non di alcuni gruppi, ma l'interesse è di tutti i cittadini, e per questo chiedo ancora una volta la partecipazione delle singole persone, la partecipazione della popolazione a cercare di risolvere i problemi. I problemi, dicevo poco fa, sono tanti, sono di grande rilevanza per il futuro. Alcune cose devono essere immediatamente risolte e alcune cose secondo me sono risolvibili immediatamente con la presenza nella città, la presenza proprio fisica degli amministratori dentro al comune. E come diceva poco fa Sarola Punzina, il sindaco, gli assessori devono essere costantemente qui, devono essere costantemente dentro al comune. Il primo passo da fare è quello della riorganizzazione della macchina amministrativa. Bisogna sfruttare le professionalità che ci sono dentro il comune, bisogna saperle mettere a frutto, però bisogna anche dare degli indirizzi politici perché la macchina burocratica funzioni, perché si attivino tutte quelle politiche virtuose, si inneschino dei meccanismi virtuosi che facciano partecipare tutti all'amministrazione della cosa pubblica. E sulle cose pratiche da fare subito, io non credo che bisogna perdere più tempo perché si creino i parcheggi, non credo, esiste un problema di viabilità che dovrà essere studiato con competenza, che dovrà essere studiato con lungimiranza, ma su alcune cose molto pratiche bisogna agire subito, creare parcheggi, dare un indirizzo al traffico. Io non so se a voi è capitato mai la mattina di essere alla stazione, di dover accompagnare i bambini a scuola. Queste cose si possono risolvere subito con piccoli accorgimenti, con idee, con partecipazione. Un'ultima cosa vorrei dire da un punto di vista, diciamo, generale, che però implica poi delle cose pratiche. Cefalù non deve perdere la sua identità, il centro storico di Cefalù non deve perdere la sua identità. Cefalù non può diventare un posto, un contenitore vuoto, bello e arredato per i turisti che vengono a vederci. Cefalù deve continuare ad essere una identità propria. I cittadini di Cefalù, del centro storico, devono avere un centro storico vivibile, con servizi che si potranno studiare assieme, però l'identità della città non deve essere andata perduta nell'interesse soltanto degli... Ecco, Antonio Tumminello, candidato sindaco di Castelbuono con il gruppo Castelbuono in Movimento, ecco, cosa si sente di dire ai cittadini di Castelbuono? Quale messaggio, quale appello vorrà fare? Io poc'anzi, lei lo sa, scherzavamo lei mi chiedeva di poterlo dire in poco tempo, ho detto, dico, potrei utilizzare la famosa frase di Totò, votantò. Dico, no, vorrei invece... Che in questo caso significherebbe vota Antonio Tumminello, certamente. No, io dico, volevo innanzitutto avere la possibilità di... è venuto, mi ha accompagnato qua Marcello Danna, mi faceva piacere poter dare a lui anche qualche minuto, ringraziarlo innanzitutto per la presenza, ma se lei lo consente, ecco, poter dare a lui, ecco, un qualche minuto per poter dire il perché. Marcello è alla prima esperienza, il suo è il primo impegno, e credo che questo testimoni, ecco, la volontà di tanti. Dico, noi nei gruppi di lavoro che sono stati coordinati da 8 brillanti giovani, tutti alla primissima esperienza, proprio della volontà di andare verso una scelta collegiale, una scelta, ecco, insieme. Ecco, credo che Marcello Danna potrebbe dire qualcosa, ecco, prima di chiudere questo... Buongiorno, buongiorno a tutti, a tutti i radioascoltatori, a tutti i castelbonesi. Io sono un medico veterinario, da 5 anni mi occupo di igiene degli alimenti di origine animale, in quanto lavoro da dirigente presso l'ASP 6 di Palermo e nella fattispecie sono in forza al distretto di Misilmeri. Io sono stato prescelto, diciamo, devo dire grazie a Antonio Tumminello, il nostro candidato sindaco, al gruppo Castelbuono in Movimento, e sono stato prescelto grazie a quanti credono nelle mie possibilità operative quale componente di una giunta di governo esecutiva che noto a precisare che si caratterizzerà preliminarmente per un'azione corale, un'azione responsabile, un'azione partecipativa di tutti i suoi membri. E questo mi preme dirlo, un'azione, e insistere su questo, un'azione partecipativa e un'azione reale, non virtuale o di facciata, come invece numerosi esempi a Castelbuono ci hanno indotto a pensare, convinto come sono che solo con, se c'è l'apporto di più autonome intelligenze e di contributi umani, è possibile gestire efficacemente la cosa pubblica. E questo perché? Perché il nostro obiettivo è quello di ridare la politica al castelbonese, al cittadino, è quello di fare del castelbonese il nostro primo interlocutore, è quello di creare un feedback con il cittadino, è quello di renderlo partecipe, parte attiva, parte integrante del nostro progetto, anche perché penso che praticamente la politica ha lo scopo non quello di raggiungere traguardi fastosi personali, ma il nostro obiettivo è quello di avvicinare la politica al sistema produttivo di Castelbuono, che secondo me è il vero volano della collettività castelbonese, e non perseguire assolutamente logiche obsolete ormai da accantonare, che sono le logiche clientelari, logiche parassitarie. Per cui posso concludere dicendo che il nostro sarà un impegno molto attivo, corale, quotidiano, concreto, in assoluto spirito di servizio e di abnegazione per tutta la cittadinanza intera. Grazie. Ecco, il dottore Danna centrava proprio questo argomento della partecipazione attiva degli altri, di tutti gli assessori, così come per la verità aveva detto anche Rosa Maria Testa e Saro Lapunzina. E Saro, per concludere, ecco, questa nostra piacevole chiacchierata, un appello, messaggio che vuoi fare agli elettori, ecco. Noi partiamo subito scusa per la procedere col nostro motto, la svolta. I cittadini hanno veramente la possibilità questa volta di utilizzare questo slogan e di scegliere una svolta vera per la città, partendo dall'identità, e non penso che sia giusto per i cefaludesi ancora una volta ricorrere a persone che vengono da fuori. E noi ci mettiamo la nostra faccia, il nostro impegno, la nostra competenza, la nostra dedizione, l'esperienza di questi anni per cercare di risolvere i problemi, pensando nell'immediato a quelle che sono le cose da fare subito, ma pensando anche al futuro. Cefalù ha bisogno di programmazione, ha bisogno di scelte, ha bisogno di scelte che siano all'interesse di tutti e non di pochi. Poco fa abbiamo parlato, io chiedo scusa se lo ricordo, di Domenico Portera e Pasquale Culotta. E io voglio dire, Cefalù ha tantissime energie, ci sono persone che... E io ho fatto soltanto alcuni esempi, tra i personaggi più appariscenti, sì, che hanno dato molto a Cefalù. Non c'è bisogno assolutamente di ricorrere a persone che vengono da fuori, solo perché coloro i quali li hanno chiamati non hanno la possibilità di presentarsi in prima persona. È evidente che l'onorevole Gianfranco Micichè e la senatrice Vicari, che hanno per esempio chiamato prima Sgarbi per poi mollarlo e ora Croci, entrambi personaggi che vengono da fuori, non possono metterci la loro faccia qui a Cefalù, perché questa faccia non la possono più spendere. Cefalù in questi anni è stata maltrattata, è stata utilizzata soltanto come luogo per fare altri tipi di passaggi a livello nazionale. Noi abbiamo bisogno di chi si dedica tutti i giorni a Cefalù, per questo vi diciamo di votare Rosario Labunzina, di scegliere il candidato che sarà qui a disposizione non soltanto della gente, ma di quelle che sono le emergenze e della programmazione futura, cercando di dare il massimo delle energie e coinvolgendo quelle che sono le energie locali. Ne abbiamo tante persone che possono dare il loro contributo e che possono cercare di avere un'attenzione particolare alla nostra città. Ecco, io questo è l'appello che lancio, è un'occasione unica da non perdere, perché le scelte che si fanno in campagna elettorale sono scelte importanti. Quando si va a votare bisogna stare attenti, perché sono scelte che poi evidentemente impegnano per i prossimi 5 anni, per cui 5 anni come quelli che abbiamo visto alla guida di Pippo Guercio sono stati 5 anni di stagnazione, 5 anni dove non abbiamo nemmeno potuto sapere dopo 5 anni qual è la reale situazione economica finanziaria del comune. Cioè sono passati 5 anni e non abbiamo saputo quello che era uno dei primi impegni che Pippo Guercio aveva detto ai cittadini subito dopo l'elezione. Ha avuto un suffragio di oltre 5.000 voti, cioè sapere che cosa aveva lasciato la precedente amministrazione. Sappiamo che dopo le macerie della precedente amministrazione ci sono le macerie dell'amministrazione Guercio. Ecco, ricostruiamo. Cefalù ancora può riprendersi, Cefalù ha tantissime energie, ha tantissimi beni culturali che possono essere valorizzati, ha risorse che è importantissime, e per cui io penso che ci deve passare un messaggio propositivo e anche di speranza, perché questa non lo dobbiamo mai perdere. Dobbiamo poi, tra parentesi, dedicare, ed è l'ultimo appello che faccio, dobbiamo dedicare una particolare attenzione, perché se il lavoro che deve essere dato ai giovani può e deve essere dato dagli operatori turistici, dai ristoratori, ecco, questi devono sentirsi avvantaggiati, anche incoraggiati all'amministrazione comunale, se questo lavoro però lo danno a soggetti che sono residenti nel luogo. Noi lavoreremo per cercare di far rimanere qui le risorse e cercare di valorizzare, di professionalizzare anche figure che non esistono, perché una delle lamentele che fanno i ristoratori e anche gli operatori turistici è che a Cefalù non ci sono soggetti che hanno professionalità, per cui cuochi, come diceva poco fa Antonio Tumminello, che ce ne sono parecchi a Castelbuono, a Cefalù ce ne sono pochi, anche altre figure ce ne sono di Castelbuono, ecco, anche il comune si deve fare promotore affinché ci sia si raggiunga una certa professionalità. Per questo noi abbiamo delle scuole, ma abbiamo anche enti di formazione professionale, e ci deve essere la possibilità che il lavoro venga dato prima di tutto ai cefaludesi. Qui abbiamo tantissimi alberghi, tantissime strutture anche di carattere ricreativo. Ecco, lì devono trovare lavoro le persone di Cefalù principalmente, perché è evidente che questa crisi, che è una crisi forte, deve essere risolta principalmente con l'attenzione di coloro i quali poi hanno attività e gestiscono queste attività. Ecco, grazie ai politici. Massimo Portera, ecco, per chiudere questo nostro discorso, come pensate di come si evolverà, come si in pratica questa settimana della passione, in quale giorno verrà fatta? Allora, intanto sarà una settimana intensissima, perché i preparativi, no, realizzazione dei palchi, insomma, sì, amplificazione, tutta le fasi preliminari, che sono chiaramente quelle più pesanti, e poi la manifestazione si celebrerà il 31 di marzo a partire dalle 19:30 in Piazza Duomo. Ci sarà un corteo con tutti i personaggi che si dislocherà fino in Piazza Duomo, e poi lì ci saranno le varie postazioni. E quando, in quale data? Il 31 marzo, quindi dal sabato 31 marzo. Il 31 marzo, proprio il giorno sabato 31, perché poi se salta quella data, la settimana santa va rispettata, diciamo, l'aspetto religioso. Io ringrazio, visto che siamo a conclusione, noi come associazione abbiamo voluto incarnare quello che era lo spirito e il messaggio spirituale di Domenico Portera. Domenico Portera uomo, Domenico Portera letterato, con la sua grande cavalcata letteraria, la conosciamo tutti, non sta a me dire chi era e cosa ha fatto per i suoi cittadini. Per riallacciarmi anche a un discorso che indirettamente qua l'amico che ho il piacere di conoscere, Antonio Tumminello, dottore Tumminello, che appunto esalta le qualità professionali di Castelbuono. Bisogna dare merito alle maestranze sotto l'aspetto alberghiero, che sono noti in tutto il mondo. Mi preme sottolineare, da figlio di Domenico Portera, che la scuola alberghiera di Cefalù porta la firma di Domenico Portera. È stata realizzata negli anni 70, quando allora sindaco era il dottore Ilardo, mio padre era assessore alla pubblica istruzione, e iniziò il cammino, proprio la scuola alberghiera, ai primi passi, con due classi all'ora bastione. Quindi noi abbiamo messo la struttura e voi gli uomini. E quindi la scuola è andata avanti, ha fatto uscire, da quella scuola sono nate tante cuochi, tante cameriere, tante personalità che in un certo senso arricchiscono anche l'economia della zona. Io intanto ringrazio Antonio Tumminello, candidato sindaco di Castelbuono, del gruppo Castelbuono in Movimento. Ringrazio Marcello D'Anna, designato quale assessore. Ringrazio Rosario Lapunzina, candidato sindaco di Cefalù, Rosa Maria Testa, che anch'essa, anche lei candidata sindaco di Cefalù, che è venuta con. Ringrazio anche Ignazio Zummo e Giovanni Crisafi. Ringrazio Massimo Portera, presidente del Centro di Cultura Polis Cefaloidion, il giovane Pasquale Curgio, Pasquale Turdo, scusate, e Totò, e inoltre poi Totò Portera, figlio di Domenico. Volevo anche aggiungere che ieri c'è stata la partita tra Cefalù e Sinagra. Il Cefalù ha fatto un grossissimo balzo in avanti per la promozione, per vincere questo campionato. Ha battuto il Sinagra al 79esimo con una rete di Nikita, e oggi domenica è in programma Spezzano Costa Verde. Auguriamoci che la serie negativa del Costa Verde, che viene fuori da tre sconfitte consecutive, tutte onorevoli, ma sempre di sconfitte si trattava, che finalmente venga superata questa fase, anche perché è una bella squadra quella del Cefalù, e quindi a Spezzano potrebbe anche fare un risultato positivo. Vorrei dire che questa trasmissione viene replicata lunedì alle ore 13:15. È proprio tutto da Angelo Arduino, Massimo Fiduccia e Mario Lombardo. Una felice giornata ai nostri radioascoltatori. Abbiamo trasmesso Qua e là, tra una novità e l'altra.